124. Salsa bianca. È una salsa da servire con gli asparagi lessati o col cavolfiore. Burro grammi 100, farina una cucchiaiata, aceto una cucchiaiata, un rosso d'uovo, sale e pepe, brodo o acqua quanto basta. Mettete prima al fuoco la farina con la metà del burro e quando avrà preso il color nocciola, versate il brodo o l'acqua a poco per volta, girando il mestolo, e senza farla troppo bollire, aggiungete il resto del burro e l'aceto. Tolta dal fuoco, scioglieteci il rosso d'uovo e servitela. La sua consistenza deve essere uguale a quella della crema fatta senza farina. Per un mazzo comune di asparagi possono bastare grammi 70 di burro, con la farina e l'aceto in proporzione.